zero fiori. Fuori c'è più pesante chi resta, per chi muove la testa, per la vibra più fresca. E non c'è per chi fa viaggi da gangsta, per chi copia il suono che pesta. Da noi zero fiori. Fuori c'è per chi mana gli spray, per le move, per gli CD DJ. E io, tu per il cash, io out for fame. E tu mi chiedi il bis, bello, sollevo game. Living reasonable, double, la realtà come Jay. Quindi fuck le tue strategie, piloto il mio game. Chiudo joint come tricking skate, margherita, my man. Come Freud faccio analisi da psycholo e jam. Fossi voi mi farei una cultura meno trend. E non paragonerei chi fa l'hip hop con boy band. Quindi fan, culo, campiono punk facendo un urlo. Taglio samples mentre tu scarichi dal mulo. Con le tue facce da duro sopra lo space. Vivo la mia vita in strada e non in rete come gay. Esatto, real flavor. Nella mia city tutti copiano i metodi per stare sopra la media. Ma la pelle il soul non si insegna. E non vi cago perché nulla vi accomuna la mia merda. Open the mic con i suoni più fat. Per te è un problema, sì, ma non per me. Zero fiori. Fuori c'è più pesanti chi resta, per chi muove la testa, per la vibra più fresca. E non c'è per chi fa viaggi da gangsta, per chi copia il suono che pesta. Da noi zero fiori. Fuori c'è per chi mana gli spray, per le move, per gli MC di DJ. Yeah, non c'è bisogno che lo dica. Conosci il sound, lo stile della clica. MC Test più ruido dell'igla. Affiliati ZC, soluzioni andas per il riga. Zero concetti privi di sostanza. Noi facciamo botti e voi vi basta un mare di distanza. Parti dall'angolo della stanzetta, noti un PC mai spento. A fianco acceso una bombetta e accetta il fatto che noi ci mettiamo mano a modo nostro, ma invisibili dal resto dell'hip hop italiano. Noi siamo scena a parte, mentre il resto dei Sackboy va in giro a scignottare l'arte. Ma son fucilate, qua ci si sbatte. Zero cloni, analizza il nome, basta. Con le cazzate, fresco come cieli dessecchiate. Studiati tipi con mirate doti, sono genialate. Open the mic con i suoni più fat. Per te è un problema, sì, ma non per me. Zero fiori. Fuori c'è più pesanti chi resta, per chi muove la testa, per la vibra più fresca. E non c'è per chi fa viaggi da gangsta, per chi copia il suono che pesta. Da noi zero fiori. Fuori c'è per chi mana gli spray, per le move, per gli MC di DJ. E io riporto bollettini a telecamere spente. Tradizione di un'isola che isola la mente. Con i fake ho imparato a non dar niente per niente. Mentre perché è reale ho le porte aperte sempre. Ma fuori giogliano le solite punchline. Preparo l'armamento per i prossimi rai. Samurai piombo davanti a te dall'alto come Little Boy. Radio la tua zona col profumo di joint. E sono radioattivo. E se vedessi come vivo sul mio posto, saresti molto per primo. In primo il marchio Underground Solution. Per le teste che muovono questa roba nel giusto. E non c'è spazio, no, no, per chi truffa. Io campiono così ho che la puntina raschia sulla muffa. Se sei tra quelli che disdegna, un grosso dito medio si innalza dalla Sardegna.